America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Ieri, giornata del lavoro, Labor Day Weekend, festa del lavoro in America, mercati chiusi, borse chiuse, banche chiuse, economia ferma, grande addio all'estate, devo dire, in una giornata, almeno qui nell'East Coast, davvero meravigliosa, con un problema. Ci sono dei nuvoloni che si stanno addensando all'orizzonte sul fronte della politica internazionale, soprattutto in Asia e, come potete immaginare, nei confronti della Corea del Nord, che non abbassa la guardia. Sentiamo. The time for half measures in the Security Council is over. His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war. Nikki Haley, ambasciatore di Donald Trump alle Nazioni Unite, ha usato un tono molto forte ieri. Ha detto: quando è troppo. Kim Jong-un, con il suo atteggiamento, sta di fatto chiedendo una guerra. Non è la soluzione che gli USA vogliono, ma la pazienza della nostra nazione ha un limite. Ecco, questo è l'atteggiamento americano. In effetti, Kim Jong-un sta alzando il tiro in continuazione. Ha fatto esplodere una bomba all'idrogeno, ha lanciato un missile balistico intercontinentale. Proprio ieri ha detto che ne lancerà un altro, che andrà vicino a Guam. La sua provocazione continua. Il quadro, dunque, è pericoloso, ma è complesso. E devo dire che più si cerca di capire che cosa sta capitando, più la questione si complica. Il problema è che questo leader nordcoreano, dittatore nordcoreano, è chiuso nel suo mondo, fatto di parassiti, di ossequi, di cortigiani, insomma è in un bozzolo, isolato da tutto ciò che gli impedisce di capire quali siano le vere dinamiche internazionali. Eppure, alla fine, voglio dire, riesce lo stesso a tenere sotto scacco l'America di Trump, la Cina, perché anche la Cina è in difficoltà con lui, la Corea del Sud, il Giappone, le stesse Nazioni Unite, la tentazione ovviamente di molti, così a istinto, sarebbe quella di dirle: ma diamogli una bella lezione e che non se ne parli più. Ecco, questa è la reazione immediata, emotiva, di pancia. Eppure, not so fast, come si direbbe da queste parti, non muoviamoci così in modo impulsivo. Any threat to the United States or its territories, including Guam or our allies, will be met with a massive military response. Jim Mattis, segretario della difesa, dice: ogni minaccia agli Stati Uniti, ai suoi territori, compresa Guam, ai suoi alleati, verrà affrontata con una massiccia risposta militare. Gli Stati Uniti non vogliono l'annientamento totale della Corea del Nord, ma abbiamo molte opzioni per farlo. Questo ha detto ieri Jim Mattis, un linguaggio di nuovo molto aggressivo. Il segretario al Pentagono ha chiarito che l'America, lo ha chiarito anche Trump, del resto, ha i piani di guerra pronti per andare contro Pyongyang. E qui non stiamo parlando, attenzione, soltanto di difendere Guam, come ha detto Mattis, ma il pericolo è che città come San Francisco, persino New York, possano a un certo punto diventare vulnerabili a un attacco della Corea del Nord. E allora a quel punto cosa farebbe questo Kim Jong-un da un punto di vista di ricatto? Insomma, la situazione è davvero difficile, e questo per l'America, cioè il fatto che New York o San Francisco possano diventare vulnerabili, beh, questo non è, giustamente aggiungo, non è tollerabile. Ecco, detto questo, qual è il problema? Se ci fosse un attacco dell'America contro la Corea del Nord, ci sarà sicuramente un intervento della Cina a difesa di Pyongyang. L'intero teatro asiatico sarebbe destabilizzato, la crisi potrebbe davvero degenerare in un conflitto atomico. Il pericolo è che la Corea del Nord lanci sulla Corea del Sud alcune delle sue testate, o che utilizzi comunque armi convenzionali per fare centinaia di migliaia di morti. Ma allora viene fatto di chiedersi: certo, questo non è nell'interesse della Cina, una destabilizzazione totale, non soltanto politica ma anche economica, nel momento in cui sta crescendo bene. E allora perché la Cina, che è pure, devo dire, molto preoccupata dalle bizze di questo dittatore, non interviene? Perché non gli blocca le forniture energetiche che metterebbero in ginocchio la Corea del Nord? Il governo Ecco, qui era Xi Jinping che parlava, la Cina ha condannato le azioni della Corea del Nord. Il paradosso però qual è? È che Kim Jong-un sta provocando, oltre all'America, anche la Cina, che poi è il suo protettore, come vi dicevo. È un gioco spregiudicato, un esempio. La scelta dei tempi per il lancio da parte di Kim di questo missile non è casuale, perché proprio domenica Xi Jinping ospitava a Pechino un importante vertice dei BRICS, con i leader di Brasile, India, Sudafrica, Russia. Si firmava un accordo per lo sviluppo da 1.000 miliardi di dollari della nuova via della seta, che la Cina vuole per riaprire strade, autostrade, ferrovie lungo la vecchia via della seta e collegarsi così direttamente al resto del mondo attraverso l'Asia centrale. Ecco, questa notizia del lancio del missile balistico intercontinentale ha messo in secondo piano il vertice, dunque ha danneggiato Xi Jinping. Non solo, nella Cina meridionale ai confini con la Corea del Nord si sono registrate contaminazioni radioattive. Allora di nuovo abbiamo una domanda: perché la Cina non dà una bastonata alla Corea del Nord? Ecco, perché? La risposta è questa: perché in questo momento sopportare è il minore dei mali. Per la Cina avere il cuscinetto della Corea del Nord, fra lei e la Corea del Sud, soprattutto fra lei e le possenti basi americane, 25.000 soldati americani in Corea del Sud, è strategicamente fondamentale, irrinunciabile. E una destabilizzazione del regime di Kim potrebbe tradursi in una riunificazione delle due Coree, altra prospettiva che alla Cina non piace per nulla, perché avere ai suoi confini una Corea unificata, potente economicamente, in più con truppe americane, beh, questo non è accettabile. E torniamo dunque a Kim. Cosa vuole per la sua Corea del Nord? Beh, diciamo, vuole essere rispettata come potenza nucleare, vuole una normalizzazione dei rapporti economici, vuole che l'America se ne vada dalla Corea del Sud, che cessino le esercitazioni militari. E queste sono richieste impossibili, sono richieste che non possono essere soddisfatte dall'America. Immaginate cosa succederebbe se l'America se ne andasse. Il giorno dopo la Corea del Nord invade e la Corea del Sud avrebbe ben poche risorse per potersi opporre a una invasione. Dunque i venti di guerra si alzano per queste ragioni, per una serie di così richieste non soddisfatte. Una soluzione potrebbe essere un compromesso che vada bene ai cinesi, che sono d'accordo, come vi dicevo, in questo con la Corea del Nord, cioè una leggera riduzione della presenza americana, meno esercitazioni, qualche apertura commerciale per la Corea del Nord, però in cambio ci dovrà essere una rinuncia alle armi nucleari. La vedete possibile? Io dico di no, anche perché Kim Jong-un ha visto cosa è successo a Gheddafi quando ha rinunciato alle armi atomiche. Per lui restano una garanzia, per noi tutti una minaccia, e non c'è dubbio che in questo stallo davvero può succedere di tutto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, questa è una canzone che ci aiuta a riflettere sulla posta in gioco, ed è la canzone Enola Gay, che era il nome dell'aereo militare che sganciò la prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima il 6 agosto del 45, creando il primo grande disastro atomico. E dunque, ecco per voi the orchestra maneuvers in the dark Enola Gay. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.